Incontri di Gianfranco Fabi. Dio, Dio. Buongiorno, buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano. Abbiamo cominciato questo incontro con un canto religioso e un canto di rinnovamento nello Spirito Santo, di cui oggi abbiamo con noi il presidente Salvatore Martinez. Buongiorno, dottor Martinez. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, oggi è domenica, una giornata di festa, una giornata religiosa, rinnovamento dello Spirito Santo. Lei è un giovane presidente, un presidente di questo movimento. Ecco, iniziamo, poi torneremo anche più avanti nel delineare la realtà di questo movimento della Chiesa, ma tanto per dare un po' di carta d'identità, come è nato e come si è sviluppato questo movimento. Nasce negli Stati Uniti nel 1967, alcuni studenti universitari si chiedevano che cosa rappresentasse questa espressione rinnovamento che aveva attraversato il concilio, rinnovamento ecumenico, liturgico, biblico. Si parlò anche di rinnovamento carismatico. E come quegli eventi non programmati che fanno irruzione nella storia dal basso, in questo caso, questo movimento si afferma senza un fondatore, rapidamente si diffonde in tutti i paesi del mondo, giunge in Italia nel 72, oggi sono 200.000 almeno gli aderenti, 1.900 i gruppi e le comunità in ogni diocesi d'Italia. Quindi 200.000 in Italia. E allora Salvatore Martinez invece, come nasce e come si è sviluppata la sua esperienza? Beh, direi in modo estremamente normale, in una famiglia cattolica, attraversata direi talvolta dalla stanchezza di una fede confessata tra abitudine e tradizione, che si ritrova improvvisamente coinvolto in questo dinamismo spirituale del rinnovamento. In fondo il rinnovamento non annuncia nulla di nuovo, non avendo un fondatore non propone un nuovo carisma, un nuovo impegno apostolico, ma come dice l'espressione rinnovamento, in qualche modo ringiovanisce, risveglia la fede. E pertanto a partire dalla musica, ho poi studiato musicologia, mi sono laureato in musicologia, ma all'epoca, parliamo del 78, ero un animatore parrocchiale, mi vidi coinvolto da subito nell'animazione musicale, poi nell'animazione liturgica e così via via nelle varie dimensioni di responsabilità di questo movimento. Il rinnovamento talvolta si presenta come una risposta al bisogno di solitudine di tanta gente, ammalati, persone abbandonate, persone che hanno sofferto nella vita e che ritrovano in questa spiritualità il calore della fraternità, il calore, la vicinanza di fratelli, di sorelle nella fede, oppure nella monotonia di una fede che d'improvviso, come il sole che fa capolino tra le nuvole, ti fa vedere la realtà con occhi nuovi. Io appartengo in realtà a questa seconda categoria. Quindi una volontà appunto di vivere la fede, che vivendola la si propone anche agli altri, però è un movimento che forse è poco conosciuto. Come mai si muove molto per linee interne più che per linee esterne? Direi perché questa è stata la sua prima vocazione iniziale. Il cardinale Siunens, che tenne a battesimo questo movimento, paragonava questa dimensione più ad intra del rinnovamento nello spirito come il fidanzamento, il tempo del fidanzamento, quando due fidanzati si incontrano, percepiscono il loro amore in via direi quasi esclusiva, cioè temono finanche i familiari o gli amici che possano in qualche modo rompere l'idillio. E così è sembrato accadere anche al rinnovamento, cioè questa riscoperta di un Gesù vivo, di una preghiera comunitaria, un amore nuovo per la parola di Dio, ha fatto prevalere gli aspetti confessionali su quelli della testimonianza, della carità, di una presenza nel mondo della cultura e del sociale. Però a ben vedere non è questa esattamente la storia, nel senso che abbiamo avuto tenuto per tanti anni direi un profilo più basso, ma questo inserimento nella realtà, del resto parlare dello Spirito Santo fuori dalla legge dell'incarnazione sarebbe un bluff. Il cristiano ha una fede che si incarna, e piuttosto una fede non organizzata in taluni casi, in opere, in attività più manifeste. Quindi è prevalsa la dimensione intramenia, quella più ecclesiale che quella sociale. Ecco, voi avete avuto tra la fine aprile e l'inizio di maggio un grande raduno a Rimini, se ne è parlato poco sui giornali, come mai? Sì, perché non fa notizia il bene in genere, E direi in questo caso 20.000 persone che si ritrovano per ritrovare le ragioni di vita, non di un impegno ecclesiale, di un impegno cristiano, ma ragioni di vita. Lo spirito dà la vita. In questo tempo despiritualizzato, demoralizzato, deculturalizzato, bisogna ritrovare le ragioni più profonde del vivere, dell'esistere. E questo non lo facciamo da noi. Certamente non sempre i mass media, la vita di ogni giorno, concorre a rintracciare il bene, a ridefinire il senso del bene. Da 33 anni ci ritroviamo a Rimini, tutti gli anni, per vivere questo grande happening spirituale, come viene definito da molti, e al termine del quale le persone fuoriescono davvero rigenerate, con una visione più chiara del loro destino. Quindi è più un incontro, diciamo, interno, un più incontro per rivitalizzare un po' la fede di ciascuno. Che tipo è l'aderente al rinnovamento nello spirito? Direi che appartiene ad ogni ceto sociale, ad ogni sesso, ad ogni età. Lo stesso movimento non si struttura all'interno per cammini cadenzati, anche di crescita, di maturazione. Direi è quella immagine del popolo di Dio che il Vaticano II consegnò alla storia. E diciamo pure che l'espressione popolo di Dio è un'espressione che in molti temono, perché è difficile procedere in un discernimento comunitario, in un'azione nella quale la fede si fa un elemento vitale, direi non un'obbedienza sterile ad un fondatore o ad una regola, ma quel principio interiore che ti fa credere, che ti fa sperare, che ti fa ritenere giusta la via che tu hai abbracciato. E pertanto troviamo ogni tipologia, ceto alto, ceto medio, ceto basso. È difficile definire l'aderente medio, l'identikit medio del componente di un gruppo, di una comunità del rinnovamento nello spirito. Grazie a Salvatore Martinez. Incontri. Con queste note di questo inno religioso, un inno di rinnovamento nello spirito, proseguiamo il nostro incontro con Salvatore Martinez, giovane presidente di questo movimento. Ecco, giusto chiamarlo movimento, rinnovamento nello spirito. Sì, più comunemente si definisce corrente spirituale, corrente di grazia. La parola movimento fa più rimando ad un'organizzazione, ad una struttura. Le abbiamo anche evidentemente al nostro interno, ci sono fondazioni, ci sono cooperative, ecco, scuole. Come si struttura il rinnovamento dello spirito all'interno della realtà della Chiesa? Direi inizialmente con gruppi di preghiera che poi si radicano sempre di più, acquistano un progetto di vita, di formazione che poi si esplicita in tante forme di impegno: i giovani, le famiglie, gli ammalati, l'impegno culturale, pedagogico, a breve anche una testimonianza più significativa per il mondo delle carceri. Ma direi sostanzialmente la cellula che compone, che assomma un po' le varie realtà, è questa dimensione di un gruppo locale che poi ha una strutturazione al proprio interno, c'è anche una struttura diocesana, regionale e nazionale. Quindi direi all'interno, seppure in modo leggero, si può parlare di un movimento propriamente detto, anche se nel suo dinamismo interno è più una dimensione spirituale a prevalere, quella appunto di una corrente di grazia non propriamente strutturata. Quindi è un movimento, chiamiamolo così, oppure in altri modi comunque una realtà che è strettamente inserita nella Chiesa, non solo riconosciuta, ma che vive a fianco e che ha un rapporto strettissimo con le strutture della Chiesa, per esempio con le parrocchie, con le diocesi. Assolutamente sì, non di dipendenza, perché non si tratta di un movimento parrocchiale, ma direi di stretta consonanza con quelli che sono gli orientamenti pastorali, che poi vengono assunti e direi riproposti carismaticamente, cioè a partire dai carismi, dalle espressioni proprie del movimento. Ecco, voi avete anche una presenza proprio come movimento all'interno della realtà sociale, per esempio in Sicilia avete delle organizzazioni che si muovono a fianco per il sostegno delle persone. Che tipo di iniziative avete concretamente? Sì, anche all'estero, in Moldova per esempio ci occupiamo dei bambini e stiamo contribuendo all'implantazio della Chiesa in Moldova, che poi è Chiesa povera, parliamo della nazione più povera del nostro continente europeo. In Sicilia stiamo ripristinando le antiche memorie sturziane e così nei luoghi che furono di Luigi e di Mario Sturzo, e quindi la sua proprietà rurale e anche il palazzo di città, stiamo ripristinando ricordando le antiche prassi che furono poi a fondamento del movimento che portò al Partito Popolare nel 1919. È un impegno che vede protagonisti detenuti, gli ex detenuti, le loro famiglie in modo particolare, in un regime di sussidiarietà orizzontale che trova nel rinnovamento nello spirito il capofila di un network di realtà, di sigle del no profit e delle reti sociali più attive nel nostro paese che si stanno insieme consorziando, io ritengo, in una originale sintesi che ci permette di vedere come la società civile può stare in auge e riportare la Chiesa e lo Stato a dialogare, così che la società civile esprima primariamente la sua vocazione a servizio dell'uomo. Ecco, Luigi Sturzo era un sacerdote, però che era fortemente impegnato in politica. C'è la politica nelle vostre prospettive? Diciamo il prepolitico, non un impegno associato. Certamente favoriamo anche la presenza di membri del movimento che si assumono responsabilità nell'agone politico. Noi vorremmo essere soprattutto una forza che prepara, che forma, che ispira, che aiuta a decodificare quali sono gli ambiti di impegno, ma intanto bisogna soprattutto preparare l'uomo. Noi diciamo che prima che rinnovare le strutture umane bisogna rinnovare l'uomo, allora prima che rinnovare il cuore della politica, il cuore delle nostre istituzioni, bisogna rinnovare l'uomo. Lui sarà poi capace, aderendo in modo forte alla fede, ai principi, agli ideali nei quali crede, di rinnovare poi la realtà nella quale si muove. Ecco, la Chiesa nel mondo, la Chiesa anche in Italia, ha un periodo in cui ha qualche difficoltà anche di comunicazione, anche di immagine in un certo senso. Voi come partecipate alla vita della Chiesa, come cercate di rendere più salda appunto la presenza della Chiesa nel mondo, l'annuncio della Chiesa nel mondo? Beh, intanto con sofferenza. L'espressione compassione si deve agli uomini e si deve naturalmente anche agli uomini di Chiesa, specie nei momenti più difficili e più dolorosi. Anche il peccato sta dentro la Chiesa, è guai a dimenticarlo, e gli uomini di Chiesa ne sono talvolta vittime. C'è una fragilità in questo nostro tempo che poi si riverbera anche nelle strutture ecclesiali. Proprio per questo bisogna avere compassione, ma al contempo direi anche responsabilità. Bisogna poter raccontare tutto il bene che ogni giorno laici e sacerdoti operano in ogni angolo del mondo onorando la loro fede. Certo, il binomio fede-vita sembra allargarsi sempre di più e la coerenza non è estremamente ricorrente nella storia degli uomini, e anche gli uomini di Chiesa sono passibili di questa colpa. Io credo però che è in atto, insieme a questa onda di demoralizzazione di cui parlavo poc'anzi, anche il concetto di decolpevolizzazione, derreatizzato alcune colpe, avere privato di significato alcuni gesti che sono contro l'uomo, in una condotta generale, una condotta morale generale imperante, ha indebolito ancora di più il senso del peccato, ha indebolito ancora di più il senso della coerenza cristiana. Bisognerebbe riflettere fortemente su questi temi, specie quando pensiamo alle famiglie, perché poi non lo dimentichiamo, gli uomini di Chiesa lì nascono, lì vengono educati e da lì poi si ritrovano a rappresentare un'istituzione che è sì umana, ma che è divina, che è di seme divino. Ecco, oggi voi avete invitato i vostri aderenti a questa preghiera in Piazza San Pietro con il Papa. Che significato ha? È espressione di un affetto profondo, è espressione di una figliolanza che si deve ad un padre che sta soffrendo e che forse è stato accusato ingiustamente più di quanto non solo non sia riconducibile al suo operato precedente al pontificato, a questi 5 anni di pontificato, ma anche al tempo attuale, nel quale ha stigmatizzato con grande chiarezza gesti, errori che si sono potuti commettere, ma soprattutto regalato speranza a questo nostro tempo. Vede, la Chiesa oggi non si identifica soltanto in questa voce che si vorrebbe spenta di Benedetto XVI, ma anche nei grandi ideali che sta cercando di riportare in auge con le sue encicliche. Caritas in Veritate ci pare riassuma profondamente lo spirito del tempo. Qualcuno vorrebbe riscrivere questa espressione in Caritas in Libertate. I cristiani ritengono che sia la verità il fondamento della libertà e non il contrario. Quindi i cristiani hanno un compito di essere presenti, di rendere viva la società e di indirizzare realizzarla secondo i valori appunto dell'enciclica, forse ripartendo proprio dalla famiglia, uno dei punti in cui la crisi anche sociale si dimostra con maggiore evidenza. Sì, e direi che lo fa ottemperando ad un mandato, che è quello di annunciare la verità, anche quando la vita non sempre sembra essere legata o sostenere la portata, il valore eterno, universale di questo annuncio. Lei citava la famiglia. Beh, la famiglia è fondata sul diritto naturale, precede qualsiasi legislazione a tutela, a svantaggio della famiglia stessa. Di famiglia possono parlare anche i divorziati. È credibile l'annuncio della famiglia anche quando viene da voci che potrebbero di per sé raccontare di un fallimento. Io credo che anche su questo bisognerebbe avere più onestà intellettuale in questo nostro tempo così litigioso. Avere il coraggio di riaffermare le parole fondamentali. E voi avete delle iniziative concrete sul fronte della famiglia? Da anni operiamo in questo fronte, abbiamo dei centri che si occupano di accoglienza anche di famiglie in difficoltà, di famiglie in crisi, e credo che questo impegno adesso venga premiato anche da un progetto che porteremo avanti insieme alla Santa Sede. Era un sogno di Giovanni Paolo II che a Nazareth, dove tutto ha avuto inizio, la famiglia potesse trovare un centro internazionale. Nel 97 l'annuncio di questo progetto, e ora la notizia che il Rinnovamento nello Spirito potrà dar corso alla costruzione e alla gestione di questo centro. E noi vorremmo che tutto il bene che la famiglia sa raccontare, tra prove e fatiche che certo non mancano, tutto ciò che i media fanno, le università, i centri di ricerche, possano trovare proprio a Nazareth, in questo luogo semplice, piccolo e direi anche dimenticato, la possibilità di annunciare che una famiglia ci vuole e che bisogna credere nel potere e nella forza della famiglia ancora oggi. Ecco, forse possiamo ricordare che Salvatore Martinez è stato anche nominato consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia proprio recentemente, quindi questo valore, questa realtà è indubbiamente uno dei punti di forza anche dell'impegno anche personale, mi sembra, di Salvatore Martinez. Sì, di recente abbiamo celebrato la plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Il tema era i diritti dei minori. Beh, io ritengo che i minori avranno garantiti i loro diritti se noi adulti sapremo assicurare anche i nostri doveri. E il dovere di educare alla vita è fondamentale. Finché non sapremo trasmettere alle nuove generazioni ragioni di vita e di speranza, vedremo lo spirito di morte sempre più ammorbare le nostre coscienze. Il rinnovamento è un sussulto di vita, è un sussulto di speranza, e noi vediamo a partire dai bambini quanto sia fondamentale raccontare la fede nei gesti semplici, quotidiani, nei quali è possibile riscoprirne tutta la bellezza e l'originalità. Ecco, lei ha pubblicato molti libri, soprattutto di spiritualità, ma anche dedicati alla figura, per esempio, di Giovanni Paolo II. A che libro sta lavorando adesso? L'ultimo è stato dedicato per l'appunto alla famiglia, Ritorna all'amore, il titolo di questo libro. Il prossimo sarà legato alla cultura della Pentecoste. Anche questo è un omaggio a Giovanni Paolo II, e se mi permette c'è anche in questo il recupero di una idea sturziana. Sturzo diceva che si può cogliere la sociologia e comprenderne il suo valore se si parla di una sociologia del soprannaturale. In altri termini, questa città degli uomini nella quale ci muoviamo dovrebbe somigliare un po' di più alla città di Dio, dove la giustizia, la libertà, la verità, la carità, questi grandi valori universali si riconiugano, si riformulano nella originalità e nella portata di questi assunti così importanti. Ecco, cultura della Pentecoste significa questo: come possiamo leggere l'ordine naturale della storia con chiavi soprannaturali? Insomma, come possiamo guardare la terra pensandola riflesso del cielo? Come possiamo aggiungere un principio interiore ad un mondo sempre più esteriore? Quindi ci sono tante culture, ma c'è una cultura della Pentecoste che poi è in fondo la cultura in cui le diversità si riconciliano. A Pentecoste uomini diversi si ritrovano riconciliati. Nel tempo della globalizzazione parlare di solidarietà non è più sufficiente. Dobbiamo capire come le diversità, che non si possono annullare, possono riconciliarsi. Questa è l'idea della fraternità universale, di una unica famiglia, e nel tempo della globalizzazione credo che possa essere un aiuto parlare di cultura della Pentecoste. Con la speranza in fondo che sia possibile, sia reale un mondo migliore in cui ognuno possa fare la sua parte, possa portare appunto i suoi valori. Quindi oggi abbiamo sentito, e ringraziamo Salvatore Martinez, i valori, l'esperienza, la missione in fondo di Rinnovamento nello Spirito. Grazie a Salvatore Martinez, grazie a quanti ci hanno seguito.